got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Ah, oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due. Sei nutezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of, that's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa cena è una cena italo-egiziana perché la nostra ospite ha radici in Italia ma radici anche in Egitto. Tra l'altro vedevo che pochi giorni fa al Museo Egizio di Torino si è tenuto proprio un incontro e dibattito sulle radici della tavola italiana e sembra che arrivino proprio dall'antico Egitto. Ma noi dell'Egitto invece vogliamo scoprire la scena attuale, anche la scena underground delle controculture, rock, la musica elettronica, la street art, perché di questo parla il libro di Claudia Galal, Cairo Calling. Benvenuta innanzitutto Claudia. Grazie, buonasera. Cairo Calling, l'underground in Egitto prima e dopo la rivoluzione, edizioni Agenzia X. Innanzitutto lei è una giornalista, vive a Milano e come dicevamo ha radici però anche egiziane. Come nasce l'idea di questo libro e come lo racconterebbe a qualcuno che non l'ha letto? Io sono una giornalista o in generale mi occupo di comunicazione anche nel mondo no profit, mi occupo molto di musica, arte e cultura ma anche di integrazione proprio perché il fatto di avere una doppia radice mi fa sentire questo tema in modo particolare. Sono nata e cresciuta in Italia e vivo a Milano da 10 anni. Quando è scoppiata la rivoluzione al Cairo ho iniziato subito a raccogliere un sacco di informazioni, ho cercato di seguire il più possibile quello che stava accadendo a Piazza Tahrir in tutto l'Egitto, perché non volevo perdermi di più di quello che mi stavo già perdendo. Quindi ho iniziato a accumulare dettagli, informazioni, immagini, volti, simboli. E ovviamente non sapevo che ci avrei scritto un libro sopra, però man mano la mole di informazioni si è accumulata, è diventata importante e soprattutto intrecciandola anche con il mio interesse per la musica, la street art, le culture underground, a un certo punto mi è venuta appunto l'idea di scrivere questo libro e a quel punto però era necessario andare in Egitto a toccare con mano quello che stava succedendo e quindi ho fatto diversi viaggi per intervistare, per incontrare, per conoscere meglio le persone e i movimenti. Noi abbiamo detto che lei ha radici egiziane, esattamente chi dei suoi genitori proviene dall'Egitto? Mio padre è del Cairo, invece mia mamma è di un paesino nelle Marche, quindi due realtà distantissime proprio, la metropoli e il paesino. E quando è stata in Egitto la prima volta? Beh, ero piccola, avevo forse 2 anni, insomma, ho dei ricordi vaghi che non so bene se sono ricordi veri o se mi sono costruita io in base ai racconti dei miei genitori e della mia famiglia. sicuramente lo scoppio della rivoluzione e tutto quello che è successo negli ultimi 5-6 anni ha rinvigorito, diciamo, la mia parte egiziana in qualche modo, però ho sempre sentito comunque di avere le radici da una sponda e dall'altra del Mediterraneo, quello sicuramente. Allora, lei ci diceva questo interesse per la controcultura, sia in campo musicale che visivo, l'ha spinta a raccontare un Egitto diverso. E un Egitto che inizia ad essere in fermento nel 2011, lo sappiamo, con le proteste contro il regime di Mubarak, era febbraio 2011, proteste che durarono 18 giorni, si concentrarono nella famosa ormai Piazza Tahrir, e il potere passò nelle mani dei militari. Poi un mese dopo vennero contestati anche i militari, si portò avanti quella che viene definita la controrivoluzione. Si parlava di primavere arabe allora, no? Con molta speranza. Poi cosa è avvenuto? Sì, purtroppo il percorso verso la democrazia, la giustizia sociale e i diritti che allora sembravano così vicini, perché insomma se in 18 giorni erano riusciti a rovesciare una dittatura, il passo verso il raggiungimento della democrazia sembrava ormai quasi cosa fatta. In realtà appunto si sono succeduti diversi regimi, tutti abbastanza terribili, perché dopo l'esercito e Fratelli Musulmani con Morsi e poi di nuovo l'esercito e ora con Al-Sisi, diciamo che la situazione in Egitto non è certo migliorata. Il suo libro, che inizia con le primavere arabe e poi ci racconta cos'è avvenuto a quella cultura, a quei giovani, termina invece con la scomparsa di un italiano, di Giulio Regeni, ricercatore, lo ricordiamo, italiano, arrestato, torturato e ucciso. Come mai ha deciso di raccontare l'Egitto attraverso questi due fatti, un fatto iniziale positivo di fiducia dei giovani egiziani per il futuro e poi con questa e altre scomparse? Purtroppo nell'anniversario nel quinto anniversario della rivoluzione appunto c'è stata la scomparsa di Giulio Regeni e pochi giorni dopo è stato ritrovato il suo corpo con i segni della tortura. A quel punto, e questa è una storia che noi conosciamo bene. Quello che non conosciamo è quello che c'è dietro. Lei che conosce bene l'Egitto, che c'è stata, qual è lo scenario possibile? Perché Giulio non è l'unico che è scomparso in questi mesi. È scomparso anche, ad esempio, un ragazzino, Aser, di 14 anni, un ragazzino egiziano accusato di far parte dei Fratelli Musulmani. Purtroppo sì, i desaparecidos egiziani sono centinaia, succedono continuamente episodi simili a quello che è successo a Giulio e le forze dell'ordine danno versioni insostenibili, perché appunto dall'incidente di macchina alla gang di specializzati contro stranieri sono tutte storie assurde. Credo che appunto il regime così paranoico e oppressivo, soprattutto verso gli stranieri, verso qualsiasi tipo di potenziale oppositore, cedano troppo spesso, diciamo così, a un eccesso di zelo e abbiano veramente degli ordini di comportamento duro nei confronti degli oppositori. Sicuramente si tratta di forze dell'ordine, non so se polizia, esercito, però è sicuramente un omicidio di Stato, questo per me non c'è dubbio, ma appena è successo ho avuto questa sensazione, senza neanche aspettare la versione ufficiale. Ovviamente è una situazione molto delicata perché il governo egiziano non vuole certo ammettere le sue colpe e allo stesso modo i rapporti tra Italia e Egitto sono complicati a tanti livelli. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con lei di Egitto, di questo libro, Cairo Calling, tra pochissimo. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Florence ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! E riprendiamo a parlare con voi questa sera dell'Egitto, di questo scenario egiziano contemporaneo che viene raccontato anche attraverso l'apporto di l'evoluzione delle controculture, l'esplosione di queste controculture durante le primavere arabe, da Claudia Galale in Cairo Calling, questo libro che racconta l'underground in Egitto prima e dopo la rivoluzione. Claudia, non abbiamo affrontato il tema della cucina, che ci sta invece molto a cuore sempre, perché so che lei ci ha portato un piatto questa sera a cena a Radio 24. Sì, essendo io vegetariana e quindi avendo sempre diversi problemi quando viaggio, soprattutto all'estero, perché mentre in Italia diciamo un piatto di pasta al pomodoro te lo fanno dappertutto e c'è sempre abbastanza scelta per noi vegetariani, quando vado all'estero ho sempre qualche problema. Anche in Egitto, pur essendo un paese mediterraneo, diciamo la cultura della carne, soprattutto la carne di agnello, è molto forte, quindi ho sempre qualche problema a scegliere che cosa mangiare. Il mio passepartout, diciamo, è il full, che è una... è l'hummus fatto di fave sostanzialmente, infatti hummus significa ceci in arabo, mentre ful significa appunto fave, e le tameia, che sono delle polpettine sempre di fave, che sono il legume più diffuso, e sono la cosa che appunto io prendo sempre quando sono in giro e sono in difficoltà perché non so che cosa ordinare. A casa sua, quando era piccola, nella sua infanzia, il papà proponeva questi piatti, visto che il papà è di origini egiziane? Sì, capitava che li preparasse, anche se anche lui alla fine è amante della cucina italiana, quindi si mangiava molto più spesso all'italiana. Lei racconta in questo libro, alterna pensieri sulla trasformazione in questi ultimi 5 anni dell'Egitto attraverso l'opposizione dei giovani, le rivoluzioni, i tentativi di dissenso, ma anche attraverso alcuni personaggi e la controcultura, ad esempio della street art. Qual è la situazione in Egitto? Perché anche la street art è vista come manifestazione di dissenso, no? Un nemico per il potere. Da qualche anno prima rispetto alla rivoluzione, poi con la rivoluzione c'è stata veramente un'esplosione di questo movimento artistico, anche magari in maniera non sempre particolarmente di alta qualità, però c'era proprio questa urgenza espressiva di manifestare sui muri, di usare i muri come se fossero un mezzo di comunicazione per far rimbalzare all'infinito i messaggi rivoluzionari. Quindi la street art e i graffiti hanno avuto un momento di grande esplosione con la rivoluzione negli anni subito successivi. Invece in questo momento in cui appunto gli artisti vengono visti come oppositori del regime nella maggior parte dei casi, la street art e i graffiti sono assolutamente vietati, quindi attualmente pochissimi giovani artisti se la sentono di scendere in strada e dipingere sui muri. Oppure, come mi hanno raccontato alcuni, quando vengono fermati dalla polizia o dall'esercito, raccontano che stanno facendo qualche opera omaggio al Sisi e vengono lasciati in pace, anche se la maggior parte delle volte non è mai così, anzi, insomma, al Sisi è uno dei soggetti più rappresentati in maniera negativa, diciamo. dal punto invece di vista musicale? Dal punto di vista musicale invece la scena è molto viva, succedono tantissime cose interessanti. Negli ultimi anni anche sono nati dei festival, si sono aperti dei locali, la musica diciamo è più, ha una vita più facile della street art perché non avviene in luoghi più nascosti e quindi ha più facilità a espandersi anche in maniera sotterranea. E ci sono tantissimi appunto artisti interessanti in tanti generi musicali, dalla musica elettronica al rock, all'hip hop, il rap, insomma, e anche la scena jazz sta vivendo un bel momento. Ad esempio, quali sono i rappresentanti sulla scena attualmente fra i giovani nella controcultura? Sì, beh, uno dei nomi più famosi che è venuto anche qualche volta in Italia è Islam Gypsy, che fa quella che si chiama Electro Sabi, ovvero riprende la musica popolare e la contamina con la musica elettronica, con i sintetizzatori. E poi ci sono i rapper come Alitaly Bab, che a volte suona con un gruppo post-rock che si chiama El Manzuma e a volte invece con un DJ in un duo che si chiama Malafat. Oppure Abdullah Miniawi, che è un cantante, un vocalist sufi che unisce i versi in arabo classico con musica elettronica o con la musica jazz. Insomma, ci sono tante contaminazioni e tante sperimentazioni. يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. Quindi la tradizione non è affatto abbandonata, anzi rivisitata. No, anzi, c'è una sorta di orgoglio in una musica tradizionale che però può essere sporcata, contaminata con le nuove tendenze, un po' come talvolta succede anche in Europa, no? Si riprendono dei generi che sembrano appartenere al passato e si riportano a una nuova vita contaminandoli con magari la musica elettronica o con strumenti moderni. Succede appunto anche al Cairo, anche se ovviamente la musica popolare rimane ancora quella predominante, insomma, quella non melodica, sentimentale, quella che va per la maggiore. Lei ci spiegava che Al-Sisi, il governo, insomma, chiaramente non vedono di buon occhio questa cultura, questa controcultura, sia che siano graffiti, sia che sia la musica, no? Invece l'approccio dei fratelli musulmani qual è? Ovviamente, essendo fondamentalisti islamici, tutto quello che è arte, rappresentazione visiva è vietato, insomma, perché la religione islamica è tendenzialmente iconoclasta e comunque viene visto sempre come l'atto di ribellione, non viene mai visto di buon occhio dai fondamentalisti. Anche la musica talvolta viene osteggiata, il canto. Certo, esatto, sono consentite soltanto alcune manifestazioni tradizionali appartenenti appunto alle celebrazioni religiose, però la musica è qualcosa di non tollerato. We'll be right back. Ma d'altronde neanche i fratelli musulmani sono molto tollerati, quindi anzi sono proprio stati messi fuori legge, quindi anche loro non hanno vita molto facile in questo momento. I brani che lei, degli artisti che, di cui lei parlava, che tipo di storie raccontano? Quali sono i temi? Sono legati in qualche maniera anche alla situazione sociale e politica? Molti di essi, soprattutto nel genere hip hop, rap, sono sicuramente temi sociali, temi di protesta, di insoddisfazione per la situazione economica, sociale, politica, culturale dell'Egitto contemporaneo. Però ovviamente ci sono anche canzoni sentimentali, canzoni intimiste, canzoni di riflessione. Insomma, poi i giovani si esprimono in maniera diversa, ma in un certo senso universale in tutto il mondo. I temi che affrontano sono in fondo gli stessi in tutto il mondo. Certo, c'è lo scontento, l'insoddisfazione per la situazione in cui si vive, ma d'altra parte ci sono anche quelli che affrontano motivi e temi più intimi. Un capitolo del suo libro si intitola Non è un paese per donne. Esattamente, ma questo credo che sia una verità che purtroppo è abbastanza evidente. In questi anni ho visto progressivamente quasi un peggioramento della situazione, cioè una maggior chiusura rispetto a qualche anno fa, proprio della mentalità delle persone nei confronti delle donne. Io per prima di solito mi sento quasi un'osservata speciale, perché magari cammino per strada e non porto il velo, ma anzi ho i capelli cortissimi, e magari a volte mi permetto anche di girare con le maniche corte, o insomma vengo sempre osservata in maniera strana. Ma quello che mi sconvolge sempre molto è che spesso sono anche le donne stesse che mi guardano male. Poi questi sono episodi che osservo io camminando per strada, però sappiamo benissimo che anche le ragazze, le donne che hanno partecipato alla rivoluzione sono state spessissimo vittime di abusi, di violenze, proprio durante i giorni di protesta in piazza Tahrir. Non si sa bene se fossero, diciamo, delle squadre mandate apposta da Mubarak per creare disagio, per fare violenza su appunto le giovani rivoluzionarie, ma insomma gli episodi sono stati veramente tantissimi. Ci sono stati i test di verginità fatti dalle ragazze che venivano arrestate, ed è una situazione che veramente in un paese civile non dovrebbe essere tollerata. E tra l'altro pochi giorni fa il parlamentare Ilami Agena ha suggerito l'introduzione di test della verginità come prerequisito per le ragazze per iscriversi all'università, cosa che ha fatto levare proteste sui social da parte appunto del Consiglio Nazionale per le Donne, ma anche insomma da molte ragazze egiziane. E comunque questo dibattito, questo islamismo strisciante, nonostante al governo non ci siano degli islamisti, esiste? Sì, non so in quale percentuale appunto il fondamentalismo islamico sia presente in Egitto. Tendenzialmente è uno stato laico e quindi ognuno va in giro come vuole, però la mentalità tende sempre di più a essere chiusa, e stranamente avviene al contrario di quello che è avvenuto negli anni precedenti alla rivoluzione, dove si tendeva a una maggiore apertura. Questo infatti mi stupisce, però mi ha dato questa impressione. Insomma, le ultime volte che ci sono andata, la mentalità generale mi è sembrata più chiusa. Full Mudammas, zuppa di fave. Ingredienti: 500 g di fave secche, una cipolla, un pomodoro, un cetriolo, un peperone, due spicchi d'aglio, due limoni, tre uova sode, prezzemolo, peperoncino, cumino, paprika dolce, olio d'oliva e sale, quanto basta. Dopo aver lasciato in ammollo le fave per una notte intera, scolatele e lessatele in abbondante acqua con un pizzico di sale. Nel frattempo, tagliare le verdure a cubetti e preparare l'uovo sodo. Mettere tutto da parte. Una volta cotte, fuori dal fuoco aggiungere il succo di mezzo limone alle fave, mescolare e poi schiacciare grossolanamente con un cucchiaio o una forchetta. Aggiungere le verdure a crudo, poi l'olio e le spezie. Poi tagliare l'uovo sodo in piccoli pezzi e incorporarlo al composto, aggiustando di sale. Grazie a Claudia Galal, italo-egiziana, autrice di questo libro Cairo Calling, per essere stata con noi stasera. Buona serata. Grazie, buona serata a voi. Grazie a tutti voi che siete stati in ascolto e in regia per la collaborazione tecnica Roberta Frisani. Scrivetemi se avete delle notizie, curiosità o delle critiche anche a vfurlanetto@radio24.it. Da Valentina Furlanetto è tutto, a sabato prossimo, ciao! You've got to give a little. That's the glory of love.